Akarin tomotta minna egotu jokutu milenge kikavu. Ammeni pojaketta shikkaine vonga nasemme nulette linkaku. Antimoni marassa mennaide, tuki kaikki kissaku. Kaikinetta kautta kunna ei oo itsuketa tomo eba millaju. Lanno kinno mama te fretta ei toki niin nuki sutetetta hintaku. Rättymäni on kolma chikka jee. Jo lu mamme jikka tu kaskule mu laita ga tu nasu ikisa tu chotto matia ha ole ne kateiga ate ore ga usso tsuku mae ni tok ni mata gatela lete da di da da kyou mo hanata mae de hilaita kagi ana honto katte ana tashika 20 ne mae mo konna hajimare kata elabena kata shinakine toka binakura yami ga docchi ka motto kaite motto tatte yokubatte wa la omae no keikaku dori tokete iku ashita bo dou demo ii ya bo kono tori motto manne ya ha kakineta kaotte kunnai o itsuketa tomo eba millaju anno kinno mama te fretta e toku ni nugi sutetette hintaku rattymani o kolma chikka ye yo lu mamme jikkaku kaskulemme laita gato nasu Chigana bottara hajimachou tamagu shiteru chupacabra bla bla Higana bottara hani nachou kamukeni tashiteru Dracula la la Chigana bottara hajimachou tamagu shiteru chupacabra bla bla Higana bottara hani nachou kamukeni tashiteru Tatoe omae ga mada tochuu demo sono te wo furi hodoite matanai ya mou omanai sayonara saigo ni koitsu wo kakiagetara soshite mata omae no naka penbo tsukitateru yawahara modoru tara eibon no papa kakuzu kubi suji no hagata genki akineta kaotte kunnai o itsuketa tomo eba millaju anno kinno mama te frettai toku ni nugi sutetette hinkaku rattymani o kolma chikka ye yoru wa mijikaku gaskilen no laita gato nasu ikisatsu